Chi sei, dove siamo, che stiamo facendo qui, perché lo facciamo? Vai a ruota libera. A ruota libera? Presentati, chi allora, sei? Valentina, libreria L'Argonauta, Roma. Via Reggio Emilia, la libreria più bella di Roma, più amena di Roma. Un sogno che è diventato realtà. Era il tuo sogno fare la libraia? Assolutamente sì. Perché? Perché il primo libro che ho letto a 6 anni è stato La storia d'Italia a fumetti di Enzo Biagi. Quindi o ti avvicini alla lettura o la odi. Certo, io l'ho amata. Mm-hmm. L'ho amata, ho iniziato a leggere, come succede anche in Harry Potter, sotto le coperte con la torcia, e non mi sono più staccata dai libri, così come anche con Cristina, che è la mia dolce metà, ossia la mia socia. Quando vi siete incontrate? Nel 2006, un corso di giornalismo, quindi un rapporto di amicizia che poi è diventato un rapporto lavorativo. Perché una libreria dedicata al viaggio in modo particolare? Il viaggio è a 360 gradi, non è soltanto il viaggio fisico, compro una guida e vado a. Il viaggio è con la mente, il viaggio è con il corpo fisico, ok, ma è con il corpo anche e vado semplicemente al bar, quello è anche un viaggio. Un viaggio può essere nel mondo della cucina, assolutamente. Cucinare anche una semplice matriciana piuttosto che un pesto alla genovese è un viaggio. Un viaggio nel mondo dei bambini, perché comunque anche avvicinarsi alla letteratura infantile non è facile. Un viaggio nel mondo delle donne, è una letteratura assolutamente sì, impegnata e impegnativa. Questa libreria hai detto che è bella, perché è bella? È bella perché è una casa, è bella perché quando l'abbiamo rilevata nel giugno del 2009, abbiamo fatto, prima dell'inaugurazione siamo state un mese e mezzo circa, a riempirle, a capire come dover sistemare gli scaffali, e mi ricordo queste nottate pazzesche in cui avevamo smantellato tutto quel poco materiale che era rimasto dalla gestione precedente, l'avevamo messo negli armadi, e la notte alle 2 aprivamo le ante degli armadi per odorare la carta, e già, cioè, da lì si è capito veramente che sarebbe stato un rapporto d'amore. Tu sei lì con i libri che ti respirano, che ti parlano, e capisci di essere un tutt'uno con loro. Quindi quando metti piede qua dentro hai non solo la possibilità di respirarli e di viverli, ma ti senti a casa, perché una libreria fatta in legno, soppalcata con il pianoforte, è una vera casa. Una vera casa. Questa scelta del legno, come si chiama? Sempre una questione di odori? Beh, legno e carta vanno sicuramente d'accordo, però devo dire la verità, in questo caso bisogna fare un ringraziamento alla proprietaria precedente, architetto, che ha fatto tutto lei a mano, scaffalature a mano, legno e noce scelto, quindi comunque c'è un lavoro pregresso. Donna, ovviamente. Ovviamente. Senti, adesso che cosa sta succedendo qui nella libreria L'Argonauta? Allora, qui nella libreria L'Argonauta stanno tentando di rubare una macchina. Ci stanno anche offrendo di mangiare. Che cos'è? Che cos'è questa cosa? Chiudere il sipario. Una buonissima cosa, diciamo, che accende tutto il palato, ti fa sentire, ti fa percepire il settimo senso. Perché stai dicendo questa roba che perché tu scopri dillo. Senti proprio il sapore dell'erba che calpestano le pecore, di tutti i lombrichi che stanno sull'erba. Senti, della pioggia che cascano sopra l'acqua. Su questi prodotti che hai portato? Ah, questo formaggio è un formaggio fatto da un ragazzo che, se lo vedi, sembra un ragazzo di città, ma in realtà è un pastore che vuole perseguire, diciamo, la tradizione del nonno che faceva la transumanza, che praticamente da Rieti venivano a Roma. Poi con la famiglia si sono stazionati a Roma e hanno cominciato a pascolare sulle montagne alla Marcigliana, che stanno a Roma Nord verso la Salaria, in un paesaggio stupendo che è praticamente una zona che è un anteparco, è una zona agricola dove fanno soprattutto, diciamo, coltivazioni a grano, a cereali. Però praticamente lui ha deciso da circa un anno di iniziare ad aprire un caseificio. Fa un formaggio buonissimo, si è inventato il bottoncino, questa è una sua invenzione, tutti i formaggi di pecore, quindi lui porta le pecore, fa il formaggio, si mangia il formaggio. L'unica cosa che non fa ancora bene è venderlo, perché che non lo conosce nessuno, perché non c'ha. Miani Giuseppe. E l'azienda quindi è di Miani Giuseppe. Sì. Perfetto. Va benissimo. Grazie. Allora Vale, oltre a mangiare, che stiamo facendo qua? Sì. Questa è la prima edizione di Libri in Onda. Abbiamo deciso di avviare una collaborazione con 9 case editrici indipendenti. Noi siamo una piccola libreria indipendente e le 9 case editrici qui presenti sono indipendenti. Le devo elencare una per una? No, perché... E dicevamo, 9 case editrici indipendenti che già avevamo avuto modo di conoscere in passato, 9 professioniste che come noi hanno il desiderio di far conoscere, comunque di far amare magari fosse l'oggetto libro alle persone. Oggi l'oggetto libro purtroppo è diventato anch'esso di nicchia, perché con il fatto della crisi in corso, con i problemi economici che ci sono, uno pensa a comprare il latte e il pane, i beni di prima necessità e non il libro, assolutamente. Quindi già è difficile venderli, a maggior ragione se sei una casa editrice indipendente, quindi magari non hai distribuzione, sei una piccola libreria che non ha pubblicità. Invece se si fa un lavoro insieme, tutti all together forever, 10 case, perché sono 9 case editrici, più l'associazione Donne di Carta, più noi, quindi diventano 10 più una, 11, si fa un bel lavoro comune affinché il libro possa essere magari, perché no, apprezzato e poi acquistato. Si fa uno sconto del 10%, che non è tantissimo, perché ci sono comunque supermercati che fanno sconti più elevati, però è quello che tutti quanti noi ci possiamo permettere di fare al pubblico. E si dà la possibilità di fare un viaggio in mezzo ai libri di vario genere, quindi si passa dalla mera narrativa contemporanea alla narrativa classica, piuttosto che alla cartografia di montagna, piuttosto che a dei romanzi che sono di lingua portoghese e brasiliana, piuttosto che dei testi dedicati alla città di Roma o addirittura alla Roma come squadra. E perché no, se si riuscisse a far convogliare più gente possibile, facendogli capire che non esistono soltanto i supermercati ma esistono anche delle belle realtà come la nostra, sarebbe assolutamente fantastico. Oggi è una giornata meravigliosa, perché non ci aspettavamo tutta questa gente, assolutamente. E domani che succede? Domani full time dalle 10 del mattino offriamo caffè con biscottini e crostata fatta a mano, e alle 18 di nuovo ci sarà l'aperitivo itinerante come questa sera, quindi vassoi che passeranno, 18:30 persone libro, persone che diranno i libri, saranno i libri stessi a parlare, ogni casa editrice ha dato un proprio cavallo di battaglia alle persone libro e le persone libro saranno qui per noi, quindi questa è per noi un'esperienza meravigliosa. Anche in questo caso racconto una piccola chicca: eravamo qui in riunione con Sandra e c'era qualcuno di scettico, no? Quando sentì la parola persona libro è rimasto un po' perplesso, dicendo ma chi è, cos'è persona libro, parlo di scettico degli editori. Sandra ci diede un esempio della persona libro e rimasero tutti a bocca aperta, quindi ovviamente non solo il progetto fu accettato da tutti quanti con grande entusiasmo, ma nel giro di breve la maggior parte delle case editrici inviarono subito il PDF del loro cavallo di battaglia, per quanto rimasero contenti e soddisfatti di questa cosa. Quindi, senti, ma una bella avventura come questa, è una cosa una tantum o già pensate che potrebbe essere itinerante, ripetuta? Qual è la fantasia? Sicuramente di ripeterla. Stiamo già pensando a un'altra cosa simile. Ci piace, è bellissima la collaborazione, sentire le persone, gli editori, via, ripeterla subito. Io e Cristina ci stiamo veramente lavorando. E quindi magari, perché no, le persone libro non saranno qui soltanto domani, ma anche più avanti con noi. Ciao. Ciao Sandra, Camilla, Coronati, Edizioni Il Lupo. Grazie. A domani. A domani allora, ci vediamo. Grazie. Grazie Valentina. Grazie a te Sandra.